Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, si comincia tra un paio d'ore con Brasile e Stati Uniti, si continua stasera alle 20.30 con Italia-Egitto. Allenamento di rifinitura in tarda mattinata per l'Italia, con qualche novità rispetto all'indicazione della vigilia. Lippi ha provato gli schemi con una formazione che non comprende Santon, che conferma, a differenza di quanto si pensava, conferma Zambrot, Chiellini e Grosso in difesa con l'inserimento di Cannavaro al posto di Legrottagli, Gattuso, De Rossi e Pirlo a metà campo, e in avanti un tridente che prevede Rossi a destra, Iaquinta centrale e Quagliarella a sinistra. Questo perlomeno lo schieramento, lo schema provato stamane. Poi si vedrà stasera se era un'ipotesi destinata ad avere un seguito oppure se era soltanto un modo di mischiare le carte, anche se è improbabile che lo sia la vigilia in una partita non tanto contro l'Egitto ma quanto in un torneo dimostrativo, insomma, e non in una competizione davvero ufficiale. Una voce che arriva attraverso Sky dal Sudafrica, ed è una voce di Lippi. Cannavaro è un giocatore che ha 35 anni, è un punto di riferimento per questa squadra sotto tutti i punti di vista, sul campo e fuori dal campo. Qualsiasi cosa si possa dire della nostra partita dell'altra sera, l'Italia è una squadra che è capace di giocare bene, benissimo, male, anche malissimo, ma c'ha un'anima, c'ha un cuore, c'ha una voglia, c'ha una unità di intenti, c'ha una compattezza che hanno poche squadre. Su questo credo che davvero non si possa eccepire, perché questa è sempre stata la caratteristica, salvo rarissime eccezioni, è sempre stata la caratteristica della nazionale italiana, e lo è tuttora. Ha parlato di Cannavaro, Lippi, di questo rientro del capitano, certo in età ormai discretamente avanzata, ma pur sempre di un leader si tratta, come Cannavaro ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera. Sentiamolo. Qualche vecchietto, come li chiamavate voi, gioca al Bayern Monaco, al Lyon, al Milan. Sono giocatori che comunque giocano in grandi squadre. E io penso che da qui al mondiale uno ci si può preparare bene, e poi sicuramente con l'entusiasmo di qualche giovane che sta uscendo adesso si potrà arrivare al mondiale nelle migliori condizioni. Ma questo è normale che succeda, no? Quando ci sono dei cambi di generazione. È successo tipo nel 98 con Maldini, che arrivava un gruppo di giovani importanti, insieme a dei giocatori di esperienza siamo usciti fuori con i campioni del mondo ai rigori, perché comunque adesso giustamente c'è la moda, c'è di affidarsi tanto ai giovani, ma senza un gruppo solido di giocatori di esperienza sicuramente non si va lontano. È vero anche questo, fermo restando che poi ciascuno tira l'acqua alla sua anagrafe, no? Si potrebbe dire, perché vale per i giovani, ma vale, come sentite, anche per i veterani. Il ministro degli esteri Fabio Tavelli, buongiorno. Buongiorno Gigi, vale certamente quando sei un po' avanti con gli anni, vale la prudenza, quando sei magari giovane vale la spregiudicatezza, ma questo anche nella nostra professione è così. Ma nella vita direi, no? Non soltanto nel pallone. Andiamo sugli altri versanti, in particolare sull'altro girone che ieri ha concluso la sua seconda giornata. Ha faticato più del previsto certamente la Spagna, ma la mia domanda è: ma come ha fatto la Nuova Zelanda a segnare 3 gol all'Italia? Mi rimane questa curiosità. Credo che l'Italia avesse davvero un atteggiamento di nemmeno di allenamento, insomma. Tra l'altro fu molto criticata la difesa. Io credo anche che talvolta qualche schiaffo imprevisto, non preventivato, faccia anche bene, insomma, meglio prenderli da questi in allenamento. Cioè, i campanelli d'allarme è meglio che suonino nelle gare amichevoli, perché lì hai la possibilità di recuperare. Se suonano in partite ufficiali, poi hai il rischio che non riesci più. Quindi la prenderei un po' banalmente, se vuoi, come una salutare doccia fredda di ambientamento. Quindi la metterei così, no? La Zelanda è veramente a tratti imbarazzante. E tra l'altro qualcuno l'ha fatto notare stamane sui quotidiani, c'è una disciplina stupenda come il rugby in cui Nuova Zelanda Sudafrica è il massimo che si possa gustare, o comunque uno dei massimi al mondo, no? Da un punto di vista spettacolare. Sinceramente Sudafrica Nuova Zelanda di calcio lo è un pochino meno, ma è più debole, cioè questo 2-0 finale si spiega con questa debolezza davvero assoluta, disarmante dei neozelandesi, e che cosa invece possono ambire, a che cosa possono ambire i sudafricani in questo torneo, e credo possa essere la semifinale, ma soprattutto in prospettiva mondiale? Guarda, in questo torneo la semifinale è il loro obiettivo minimo, ma anche massimo, perché poi tendenzialmente dovrebbero trovarsi o Italia o Brasile. La cosa curiosa di questi due gironi è che mettono nell'ultima giornata due partite che potrebbero diventare poi la finale, perché si gioca Brasile-Italia e si gioca Spagna-Sudafrica, che sì, crediamo saranno le quattro che poi andranno a incrociarsi in semifinale, e poi paradossalmente potrebbero rincrociarsi in finale, quindi è una cosa abbastanza divertente questa, se vuoi, è abbastanza unica, credo. E cosa può fare il Sudafrica? Beh, intanto può rischiare di andare fuori, perché se perde con la Spagna, se perdesse con la Spagna e anche magari in maniera dolorosa, e l'Iraq, come crediamo, batterà la Nuova Zelanda, ecco che tornerà in ballo la differenza reti e può diventare pericoloso. Insomma, il Sudafrica ragionevolmente può fare quello che fanno spesso le nazioni deboli che ospitano il mondiale, come fu la Corea, come fu il Giappone, come furono gli stessi Stati Uniti: qualificarsi per gli ottavi sperando in un buon sorteggio, che solitamente è sempre discreto, a volte abbordabile, a volte agevole, andare agli ottavi e sperare di trovare una nazionale normale, e per andare ai quarti però fermarsi lì, ecco. Non credo che l'orizzonte temporale non consenta un miglioramento così deciso, cioè non mi risulta che i sudafricani abbiano un parco giovani tale che in un anno possano esplodere, e loro qualche anno fa sembravano avevano decisamente una proiezione futura migliore, superiore. Quando fu affidato loro il mondiale, al di là poi delle implicazioni etniche, implicazioni sociali complessive, si ragionava anche sul fatto che il Sudafrica potesse rappresentare la speranza di un primo titolo mondiale per una squadra africana. Vederli un anno prima fa pensare che per fortuna hanno fatto più passi avanti dal punto di vista sociale che sportivo. Ecco, ma non è sempre un pochino così quando si parla di calcio africano? Cioè, con quella eccezione della Nigeria con quel titolo olimpico, ma al di là poi del vincere o non vincere, ma non è che per l'ennesima volta e questo dura da almeno 20 anni, se bastano, si pensa sempre al salto di qualità definitivo del calcio africano, e invece poi quando lo si misura davvero nelle occasioni che contano, questo salto non c'è, oppure arriva fino a un certo punto, magari anche in maniera molto spettacolare e divertente, ma poi si affloscia? Guarda Gigi, io penso questo, che ci sia un problema complessivo nelle squadre africane, che sia la concentrazione, cioè la tenuta sui 90 minuti, e davvero ci sono delle partite, è banale dirlo, è superfluo forse, ma le devi giocare 89, no, non ti basterà giocare 89 minuti concentrato, devi giocarne 90, magari 95 o anche 120, basti pensare alla Nigeria nei mondiali del 94. Ho il sospetto che sia anche un problema mentale di abitudine intanto a queste competizioni, che le compagini africane hanno certamente meno di quelle sudamericane ed europee, sul fatto che spesso non riescono a tenere la concentrazione per tutta la partita, e a maggior ragione non riescono a tenerla per tutto il mondiale. Cioè, competizioni di un mese necessitano di uno sforzo di tenuta mentale, quindi fisica ma anche e soprattutto psicologica, che credo non appartengano ancora a queste squadre. Basti vedere come queste squadre hanno fatto dei grandi exploit, basti pensare al Senegal nel mondiale del 2002, ma anche al Marocco, Francia 98, abbiamo parlato della Nigeria, ma anche il Camerun nell'82, chi si ricorda il Camerun nell'82 e poi anche nel 90, perché il Camerun, certo, nel 90 era una signora squadra, certo. Ricordiamo che batté l'Argentina nella gara inaugurale, ma poi perse in maniera pazzesca l'ottavo di finale o il quarto di finale. Questo ti dimostra e ci dimostra come a queste squadre manchi la tenuta non tanto sul breve termine, bensì sul medio termine, che è una tenuta mentale, competizioni da un mese. Io credo che sia soprattutto mentale più che fisica. Beh, c'è da registrare l'ennesima figura decorosa di Milutinovic, no, mi pare, perché sì, insomma, lui è arrivato a prendere in mano l'Iraq e stava per cominciare questo torneo. Avrà fatto sì e no, posso immaginare qualche allenamento, qualche seduta, qualche breve raduno, Però insomma un suo decoro la squadra ce l'ha, certo, della serie, oggi si dice tutti dietro la linea del pallone, beh questi sono tutti dietro la linea di porta quasi, sì. però è chiaro, giochi contro la Spagna che ha appena rifilato 5 gol alla Nuova Zelanda, che è campione d'Europa, che è forse la favorita numero uno per il mondiale, e te la giochi così, comunque con decoro, senza cattiverie, senza... Senza picchiare in maniera indiscriminata, insomma, tenendo sempre conto che l'Iraq ha una situazione complessiva che non è facile per organizzare il calcio. Apposta. Già, aggiungiamo anche sia ai campionati asiatici ma anche ai campionati africani, che i loro campionati nazionali non sono ricchissimi dal punto di vista tecnico, e quindi anche l'abitudine a certe partite viene meno, quindi non basta solo la Coppa d'Africa o la Coppa d'Asia per creare un'abitudine a questi match, a questi incontri, a questi confronti, e anche i giocatori che poi giocano all'estero poi fanno fatica a trasferire i compagni che giocano in loco questa mentalità. Aggiungiamoci anche che queste squadre spesso hanno dei grandi centrocampisti, dei giocatori di grande potenza fisica e anche di grande qualità, ma contemporaneamente non hanno mai dei grandi difensori, quelli un po' rocciosi, quelli un po' furbi che in area magari ti tolgono il pallone in maniera un po' furbesca come fanno i difensori europei o quelli argentini o uruguaiani. Insomma, certo, queste cose non nascono naturalmente, bisogna che qualcuno te le insegni e poi si debbano creare delle generazioni che trasmettano questi geni. Sì. Evidentemente questo non è ancora accaduto. No, certo. Comunque, insomma, il buon Bora, la sua parte decorosa la sta facendo anche in questo caso. Poi lui è l'uomo delle missioni impossibili, no? E quindi lo è stato dal 90 in poi, governando nazioni improbabili e sempre riuscendo a portarle ai mondiali e a farle figurare in maniera decorosa. Manca un'ora e mezza a questo punto, poco più, a Brasile Stati Uniti. La domanda è questa: l'Italia certamente sta pensando, e dicevo prima di Lippi, di queste carte rimescolate stamattina, come ristrutturare in senso positivo la nazionale dell'esordio. Credo che lo stesso problema dovrebbe riguardare il Brasile. Sì, lo riguarda abbastanza, anche se è abbastanza normale che in competizioni a gironi con tre partite chi vince la prima possa fare qualche ritocco nella seconda per poi avere tendenzialmente nella terza la squadra pronta per giocare una semifinale, un quarto, a seconda delle varie formule. Quindi mi aspetto un Brasile magari meno rinnovato rispetto all'Italia. L'Italia potrebbe cambiare 5 undicesimi, del Brasile me ne aspetto 3-4. Sì. Resta il fatto che penso che ragionevolmente il Brasile che vedremo domenica contro l'Italia sarà abbastanza simile a quello che ha battuto l'Egitto, ma credo che Dunga non vada molto lontano. Io penso che il Brasile abbia un po' di problemi a centrocampo, nel senso che non è un Brasile che abbia qualità. Non solo, Gilberto Silva ormai ha qualche anno, per cui credo che possa essere agilmente sovrastato da un buon centrocampo italiano. Va bene, grazie allora a Fabio Tavelli. A voi, buona giornata. Chiudiamo questo collegamento, dunque tra poco i vostri interventi in diretta all'800 24 0024, direi possibilmente entro le 14:30, perché poi vorrei aprire un altro capitolo con l'aiuto di Marco Bellinazzo che riguarda altri argomenti, riguarda sempre il calcio, per carità, ma in altra ottica. Tanto per cominciare, la famosa o forse famigerata tessera del tifoso che il ministro degli interni Maroni ha rilanciato di recente come chiamiamolo un oggetto al momento, perché è un oggetto abbastanza misterioso ancora, indispensabile per accedere dalla prossima stagione in qualsiasi stadio. Sinceramente però è un progetto che continua a restare molto sulla carta. Allora Marco Bellinazzo, che ha indagato su questo, ci guiderà nel tentativo di capire di che si tratta, fermo restando che sta rientrando a quanto pare la scissione tra la Lega di Serie A e la Lega di Serie B, e questo sarebbe un fatto abbastanza clamoroso. Dicevo che aspetto i vostri interventi. C'è una notizia di poco fa che in pratica chiude l'affare Cissoko, cioè quel giocatore del Porto acquistato dal Milan, nel senso che Cissoko con ogni probabilità tornerà protestato, come si dice in casi come questi, tornerà protestato al Porto. Leggo l'agenzia: i problemi fisici e in particolare quelli legati ai denti e alla masticazione sembrano aver compromesso definitivamente l'arrivo di Ali Cissoko al Milan. Le condizioni fisiche del giovane franco senegalese lasciano perplesso lo staff medico rossonero. preoccupato che la struttura dentaria possa pregiudicare la postura e il rendimento del giocatore già afflitto di recente da una pubalgia. È un binario moto la trattativa tra Milan e Porto per trovare soluzioni alternative alla cessione per 15 milioni di euro, e quindi, pur mancando l'ufficialità, la trattativa sembra praticamente naufragata. Veda Cuneo dice: ma non si potrebbe reclamare sul sito della nazionale italiana per il colore della maglia? Ma penso di sì, penso che si possa, si può, forse si deve anche, visto la maglia e i pantaloncini, direi, i calzettoni, e comunque basta farlo in termini civili. Credo che il dissenso sia ancora ammesso, non so per quanto, ma insomma dovrebbe. Saro ha chiamato da Torino, buongiorno. Buongiorno Veranzini. Dica. Una considerazione e due domande secchissime, così tolgo di subito in fretta in fretta. La prima è questa: c'è bisogno di aspettare un giorno prima che comincino i mondiali, in virtù di quello che è successo in Spagna quando abbiamo vinto, per inserire uno che potrebbe essere il nuovo Cabrini? Non mi sbilancio troppo, comunque un bel talento come Santon, è un Rossi per l'occasione, riesumando il vecchio? Seconda considerazione è questa, però mi risponda con la sua proverbiale sincerità, tanto. È convinto come me che Toni sia cotto e che Gerardino non è un fenomeno? Ho finito. Sì, sì, sono altrettanto convinto, visto che la metti in termini così ultimativi, sì. Adesso poi cotto è sempre un po' generoso, sono sempre quelle espressioni non particolarmente lusinghiere, però insomma Toni mi sembra perlomeno in nazionale, poi nel Bayern ha alternato momenti buoni ad altri meno, in nazionale ormai mi sembra sinceramente che sia un'avventura in discesa. Poi per carità, ci può sempre stare la resurrezione improvvisa, ma sembra improbabile. Girardino, lei ha detto, non è un fenomeno. Beh, infatti non è un fenomeno, però di fenomeni ce ne sono pochi al mondo, quindi in questo senso le do ragione nel fatto che sia un buon attaccante, invece credo che non si possa discutere. Nessuno di loro due in nazionale ha mai entusiasmato, come d'altra parte attaccanti di ruolo che abbiano entusiasmato nella storia recente della nazionale italiana non mi pare di ravvisarne tanti. È anche per questo che si sono create queste attese su Rossi, che per la prima volta, ricordiamo che è la prima volta l'altra sera che ha risposto alle attese, e queste attese potranno riguardare poi altri giocatori più avanti, che potranno essere Balotelli, potranno essere Acquafresca, potranno essere alcuni degli altri giovani che si stanno mettendo in luce. Tra poco poi avremo anche un collegamento col Sudafrica, con Stefano Piazza, per la consueta, come dire, curiosità quotidiana che arriva da questa Confederation Cup tra qualche minuto. Prima c'è Dario dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Ho sentito in diretta che Sissoko non viene, vabbè, forse l'abbiamo azzeccata una volta. La mia domanda era questa, gentilmente, ma uno come Rossi, quel ragazzo lì, non potrebbe far comodo al Milan, visto che vanno a cercare sempre di qua e di là? Mi sembra un ragazzo che sia capace a fare il suo lavoro, diciamo, di giocatore, poi è giovane, scattante. Detto questo, lei l'ardua sentenza mi dica. No, io sentenze me ne guardo bene, al massimo opinioni che valgono esattamente come le vostre. Insomma, la storia di Rossi è abbastanza strana, no? La storia di Pepito Rossi. Perché settore nasce nel New Jersey, arriva in Italia con i suoi e nel settore giovanile del Parma, da lì lo rapisce nel Manchester United, poi ritorna brevemente a Parma, poi gli fa un contrattone Villarreal e se lo porta via, gioca da 2 anni in Spagna, è un giocatore bello, elegante da vedere, moderno, veloce, uno di quelli che puntano alla porta, che l'1-2 te lo sa fare come si deve, no? 1-3, 1-4, 1-5 come tanti attaccanti in giro, bella cosa, però insomma, 22 anni che non sono certamente tanti, anzi beato lui, ma non proprio l'età in cui esce il campione, no? Perché in genere il campione si afferma prima. Quindi un giocatore di buon livello, di buon rendimento, di grande interesse e di buona prospettiva. Poi fino a dove vediamo. Per i club italiani comunque insomma sarebbe un acquisto oneroso, perché credo che grazie anche a queste performance recenti, credo che ormai, mi pare aver capito, che Rossi viaggia sui 25-30 milioni di euro il suo cartellino. E Non stiamo parlando di cifre da poco. Poi che possa servire a una società italiana anziché a un'altra, questo come sempre è opinabile. Io credo che un talento di, insomma, un bel talento, un bel giocatore così sarebbe meglio in Italia che all'estero, ma questo vale un po' per tutti, no? E ormai sono discorsi che appunto nel villaggio globale forse hanno meno senso di un tempo. Dovremmo essere già collegati con Stefano Piazza in Sudafrica. Stefano, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Senti, che cosa rimbalza oggi? Te lo domando dopo la sigla abituale. Confederation Cup, a un anno dal mondiale. Sì, stiamo sentendo, Stefano, rumori esotici che non sono esattamente, per fortuna, quelli di quelle mefitiche trombette che mi pare stiano facendo litigare anche sudafricani e FIFA, o sbaglio? Scusa, ma ti sento malissimo in questo momento. Allora, vediamo se riusciamo a perfezionare. Oh, perfetto. Adesso va meglio, okay. No, dicevo che anche nella nostra sigla rimbalza qualche rumore esotico, qualche più o meno musicale o paramusicale, che dà l'idea, per l'appunto, dell'altrove, insomma, del lontano da noi, certo. sempre meno sgradevole, comunque sempre più gradevole la scelta di quelle trombette avvelenate che stanno facendo litigare la FIFA e il Sudafrica addirittura. Sì, sembra di sì. Questi vuvuzela si chiamano, ricordano un po' l'atmosfera che c'era nella vecchia Coppa Intercontinentale a Tokyo. Sì. C'è questo fracasso infernale all'interno degli stadi, per cui diventa anche difficile, se ti distrai un attimo, capire quando c'è un'azione particolare, perché il frastuono è costante, l'entusiasmo dei sudafricani è costante anche per i falli laterali. Sì, quindi cioè, io vedo anche molti messaggi, molte mail qua sul display. È indubbiamente abbastanza fastidioso da un punto di vista acustico, anche se io non credo sia inedito. Tu hai già ricordato i precedenti della, per esempio, l'Intercontinentale di Tokyo. Io, senza, visto che queste cose vengono attribuite da alcuni ascoltatori agli africani, vorrei ricordare che nel 94 a Boston, per Italia e Nigeria, pur essendo in tribuna stampa, c'è una trombetta esattamente alla mia destra, che, cioè, la rimonta finale col rigore decisivo di Baggio la ricordo meno di quanto non ricordi quella trombetta per avermi, credo, lesionato definitivamente i timpani, e forse non solo quelli. Sicché non anche qui in tribuna stampa, in realtà. Sì, Non è insolito neanche qui, dicevo, in tribuna stampa. In effetti sono diffuse in tutto lo stadio, compreso tra i giornalisti africani. Però il dato che mi ha colpito rispetto a questa vicenda, stiamo parlando di colore, stiamo parlando di cose leggere, però insomma un anno al mondiale nel loro peso, è stato il fatto che la FIFA anche si è lamentata di questo, e mi pare che i sudafricani abbiano risposto per le rime. Sì, in realtà è questo strumento è quasi un'istituzione nazionale. Gli stadi ne sono pieni costantemente, in tutte le manifestazioni, anche nelle gare della Serie A sudafricana, della Premier Soccer League. La FIFA non è entusiasta di questo, perché disturba sia i tifosi che in qualche modo anche le trasmissioni radio e video, per quanto riguarda l'aspetto audio ovviamente. I sudafricani, almeno in questo, hanno cercato di zittire la FIFA. Ci sono state molte polemiche sulla soggezione che i sudafricani proverebbero per la FIFA, però se gli tocchi queste tradizioni nazionali, effettivamente si chiudono a riccio, e su questo non c'è assolutamente discussione. Questo ne sentiremo anche di sicuro durante tutto il mondiale del 2010. Le distribuiscono anche al di fuori dello stadio, per cui sicuramente ce le ritroveremo per tutto il prossimo anno. Ho l'impressione anch'io, e comunque ne riparleremo. Per esempio sabato avremo uno spazio un pochino più ampio, sabato alle 17, in questo appuntamento da dedicare a questo argomento e ad altri, no, che fanno da contorno alle manifestazioni. In questo minutino finale, ne abbiamo già parlato prima con Fabio Tavelli, ma mi piacerebbe una tua riflessione, avendolo visto da vicino, sul grande zingaro del calcio mondiale, su Bora Milutinovic. Sì, per usare una banalità possiamo dire che questo serbo col passaporto messicano ovunque vada fa miracoli, perché è vero che l'Iraq è campione continentale, però insomma, è un po' come la Danimarca campione europea nel 92, di sicuro è inferiore, nettamente inferiore a corazzate come la Corea del Sud o il Giappone. Però ecco, lui la prima cosa che disse arrivando sulla panchina irachena nell'aprile di quest'anno fu che avevano buona tecnica ma che avrebbero dovuto migliorare la fase difensiva, ed è stato di parola perché anche la Spagna ieri abbiamo visto ha trovato un muro, e il risultato di ieri in realtà lascia aperto il discorso qualificazione, perché il Sudafrica adesso deve giocare contro la Spagna, ma secondo me l'Iraq è superiore anche alla Nuova Zelanda, per cui ai mondiali del 2010 dirà che non si è qualificato, ma non è detto che non vada in semifinale quest'anno. Non è affatto da escludere, in effetti. Grazie allora per oggi, Stefano Piazza. Appuntamento a domani. Cambiamo argomento. Mi ha raggiunto Marco Bellinazzo. Marco, buongiorno. Buongiorno. E direi che ci sono almeno tre, quattro argomenti di particolare interesse in questi incroci che noi ogni tanto coltiviamo tra calcio e legislazione, tra calcio e finanza, mercati, economia. E quel che si vuole. Personalmente quella che continua a flagellarmi è la tessera del tifoso, perché non la capisco. Cioè, ancora sui giornali di ieri ho letto di un intervento robusto del ministro degli interni Maroni, di una sua di aver ancora caldeggiato una volta di più l'introduzione di questo strumento come della panacea che risolverà se non tutti ma quasi tutti i problemi che riguardano la violenza negli stadi, prevenendola alla fonte. Io sinceramente confesso non ci ho ancora capito nulla. Mi puoi aiutare? Farei una piccola premessa, se me la consenti, perché vorrei sgombrare il campo da un equivoco. Il problema del calcio italiano non è il fatto che si possa perdere Kakà o magari che si possa perdere Ibrahimovic, questi grandi campioni. Il calcio italiano ha un problema strutturale, una sorta di miopia strategica che in questi anni ha fatto sì che si stesse attenti, diciamo, ai problemi contingenti e non si progettasse la soluzione di questi problemi a lungo periodo. Il risultato di questa miopia strategica è il fatto di perdere giocatori importanti che preferiscono altri tornei, e la spaccatura della Lega, di cui magari avremo modo poi di parlare nei prossimi giorni, con squadre di Serie A che si chiudono a riccio in una Superlega e non vogliono più ripartire le risorse agli altri, ai club meno ricchi o meno privilegiati. E l'importante sarebbe appunto trovare delle modalità, degli strumenti per programmare un diverso modo di vivere il calcio. La tessera del tifoso, e arrivo al punto, è stato presentato come uno di questi strumenti innovativi, copiati magari da altri modelli più avanzati, che dovevano servire o che dovrebbero servire a combattere il fenomeno della violenza negli stati, bloccandolo alla radice. Si è fatto il tentativo di imporre velocemente a tutte le squadre l'obbligo di adottare questa tessera del tifoso. Ancora ieri il ministro dell'Interno Maroni ha raccomandato a tutte le squadre professionistiche di dotarsi di questo strumento. Lo ha presentato come lo strumento principe per battere la violenza negli stadi, per offrire diciamo una tutela preventiva alle stesse società. Se però si passa da questi proclami ai fatti, al concreto, cos'è sta tessera del tifoso? Innanzitutto ce l'hanno Milan e Inter, come i tifosi delle squadre sapranno. Ma tutti? Hanno questa tessera quelli che hanno sottoscritto un abbonamento lo scorso anno e quelli che l'hanno fatta pur non sottoscrivendo un abbonamento. Per farla si va in banca, già questo lascia abbastanza perplessi. Il Milan ha la partnership con Banca Intesa, l'Inter con la Banca Popolare di Milano. Si va in banca, si compra, si acquista questa sorta di carta prepagata, che è semplicemente una carta di credito, una carta bancomat, costa 10 euro per chi non l'acquista con l'abbonamento. Si può caricare, si può spendere nei punti vendita convenzionati, si hanno degli sconti, si acquistano dei punti tipo le mille miglia. Insomma, sembra qualcosa di diverso da come è stata presentata. Ora, sì, è vero che sia nel sito del Milan che nel sito... Anche come ministero di competenza, secondo me, cioè me la vedo di più da parte del Ministero delle Finanze, faccio per dire, che non al Ministero dell'Interno. Dov'è il passaggio sicurezza? Il passaggio sicurezza è questo, appunto, che sia nel sito dell'Inter che del Milan si avverte, e questo, diciamo, in coerenza con quello che Maroni ha detto, che la tessera del tifoso non può essere rilasciata, non può essere più conservata da chi sia stato, diciamo, punito con un DASPO, cioè un provvedimento di allontanamento degli stadi, o abbia ricevuto condanne, per anche non definitive, negli ultimi 5 anni per fatti di violenza legati a manifestazioni sportive. Il punto è: chi controlla in maniera preventiva che il soggetto che si presenta allo sportello della banca non è stato destinatario di questi provvedimenti in passato? Ora, è certo. Normale che l'autorità pubblica ha gli strumenti per fare questo controllo, una banca, forse anche meglio che non abbia in mano forse molto una banca dati di questo tipo. Insomma. Esatto. Non solo, ma il calcio italiano finisce a Inter e Milan per il ministro Maroni, oppure può contemplare anche, non so, la Juve Stabia piuttosto che il Rimini o il Valle d'Aosta? Stando a quello che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha dichiarato per tutto l'anno, tutte le squadre di calcio professionistico, quindi Serie A, Serie B e Lega Pro, dovranno dotarsi di questo strumento, che dovrebbe consentire appunto a chi ce l'ha di superare le restrizioni che di volta in volta l'osservatorio fissa, e quindi per esempio andare in trasferta quando le trasferte sono vietate, o poter acquistare i biglietti anche se non si risiede nella provincia nella quale si svolge l'evento. Però scusami Marco, a partire dalla stagione 2009-2010, a un certo punto durante l'anno è stato anche detto che da subito al 2009 questo era applicabile. È stato fatto un esperimento, se ricorderai, in Napoli-Milan, un esperimento che è finito male perché insomma gli episodi di violenza ci sono stati, e a quel punto è stato detto: vabbè, la tessera del tifoso serve perché chi ha acquistato il biglietto con la tessera del tifoso va allo stadio e commette violenze o si rende responsabile, diciamo, di atti di aggressione nei confronti degli altri tifosi, può essere individuato e allontanato. Ma per questo c'è il DASPO, ci sono già i provvedimenti solo, che possono essere adottati dall'autorità di sicurezza. È improbabile che chi ha intenzione di delinquere, no, vada a comprare una tessera che tanto gli serve, mi sembra di capire, non a poco, se non a essere individuato proprio il giorno che dovesse decidere di fare qualcosa. Io credo che questo possa essere uno strumento utile, ma bisogna fare chiarezza su chi lo rilascia, su come, quali sono le modalità per diciamo di gestione del provvedimento della tessera, chi controlla chi, se invece si riduce tutto a una carta di credito che consente di avere un certo giro d'affari, perché ogni volta viene ricaricata questa tessera deve essere pagata, certo, e si paga la commissione alla banca, immagino ci sia un ritorno anche per la società. Immagino sostanzialmente anch'io. Per il momento non è quello che dovrebbe essere, o almeno da quello che abbiamo letto sembra essere la tessera del tifoso non lo strumento per lottare contro, insomma, i tifosi violenti. Non solo Marco, ma il rito della dilazione che insomma che in questo paese forse viene abbastanza praticato, mi sembra che anche in questo caso si applichi alla perfezione, perché siamo quasi a fine giugno, siamo comunque nella seconda metà di giugno, mancano poco più di 2 mesi all'inizio dei campionati. Se questo deve essere lo strumento di cui tutti i tifosi d'Italia vengono dotati, ancora oggi non se ne sa nulla, e siamo a livello informativo esattamente come ai primi dell'anno solare, quando tu cominciasti a parlarci di questa cosa, e sono passati 6 mesi in vano, intendo. Ho sondato così in maniera informale qualche società e sono tutte in alto mare nella predisposizione di questo strumento. Mi lascia molto perplesso appunto il riferimento del ministro Maroni al bisogno di investire in sicurezza con la tessera del tifoso, perché non si investe in sicurezza, almeno per come per il momento è stata congegnata questa tessera. Vabbè, a parte il fatto che nel frattempo vedo un'agenzia che dice per Cissoko Galliani, virgolette, più no che sì, e quindi evidentemente il problema sussiste davvero. L'altro argomento, fermo restando che se ci sono gli ascoltatori che vogliono intervenire anche su queste materie sono ovviamente benvenuti, se no noi andiamo avanti con il secondo capitolo. Fermo restando che questo non è evaso come pratica, perché torno a dire, 6 mesi fa si diceva dall'anno prossimo senza tessera del tifoso non si gioca più a pallone, questa era la sostanza, in poche parole ne sono passati 6, non è successo assolutamente nulla, adesso ne mancano solo 2 all'anno prossimo e voglio vedere come c'è agosto di mezzo, insomma, come faranno. Solitamente non è un mese in cui ne manca uno o poco più, vabbè, quindi nemmeno in questo caso se ne parlerà, se non per dire che questa sarebbe la panacea di tutti i mali, no? E per dirlo in maniera così dall'alto e così autorevole mi lascia ancora più curioso e perplesso. Secondo argomento, cosa facciamo? La crisi della Lega o ci dirigiamo verso questa novità di giornata che arriva da Firenze? Scegli liberamente. La crisi della Lega, visto che avrà... La liquidiamo in un minuto e mezzo e poi facciamo un intervallo. Poi, sì. C'è questa grossa spaccatura, abbiamo letto tutti che la Lega di Serie A vuole staccarsi dalla Serie B, vuole diventare una Super Lega. È stato nominato Maurizio Beretta, un manager in dubbio valore per strutturare questa nuova Lega, che dovrà in primo luogo sfruttare quei diritti televisivi, quei 900 milioni almeno che dal 2010 dovrebbero giungere nelle casse delle società di massima serie per i diritti televisivi. È un segnale molto grave di una spaccatura, di una mancanza di solidarietà nell'ambito del movimento calcistico italiano, tant'è vero che si sta cercando di riavvicinare, di ricucire questo strappo. Sono giorni importanti, la prossima settimana sono previste, venerdì c'è un incontro della Lega, ma ce ne sono altri in programma anche informali nella prossima settimana, ne parleremo quando le cose saranno più chiare. Sicuramente se si protraesse questa spaccatura, se si andasse alle estreme conseguenze, non sarebbe un bel segno. No, assolutamente no. Ci sono un paio di ascoltatori che ironizzano sulla testa del tifoso. Ernesto scrive da Brescia: ma siamo un sistema più che altro per far prendere le provvigioni. Mentre Marco da Pesaro scrive: la tessera del tifoso potrebbe funzionare così: in caso di condanna per violenza o atti vandalici, grazie alla tessera si ha uno sconto del 20% sulla pena. È una buona idea. A Cremona, scrive Diego, gli ultra hanno tappezzato la città di manifesti con scritto no alla tessera del tifoso. Direi che è il caso di imporla solo per questo. Benissimo, perché si capisca una volta per tutte che cos'è, quali sono i tempi di attuazione e si tolga questa sgradevole sensazione della carta di credito che serve magari anche, insomma, che lascia una traccia comunque sgradevole, a parer mio, proprio come sensazione. Ce la spieghino meglio e in maniera soprattutto operativa, cioè meno parole magari e più fatti individuati. Però questo è il momento tradizionale del ripasso di storia, sicché sentiamo Nicola Filippone. Sembra ieri. 18 giugno 1972. La Germania Ovest si aggiudica la quarta edizione del campionato europeo, battendo a Bruxelles l'Unione Sovietica. I tedeschi si impongono con un netto 3-0, trascinati dal centravanti Gerd Müller, autore di una doppietta. Nella storia degli europei, Germania-Unione Sovietica del 72 è tuttora la finale con lo scarto più ampio. La nazionale tedesca replicherà il trionfo continentale nel 1980 in Italia e nel 1996 in Inghilterra ed è attualmente la rappresentativa con più titoli, seguita da Francia e Spagna con 2. Torniamo in compagnia di Marco Bellinazzo e di un altro argomento, questo sì di particolare sostanza, mi sembra sostanza, per il momento no anche qua, però insomma più proiettabile forse di quello della tessera del tifoso, cioè la nuova legge sugli stadi che mi pare sia in questi giorni negli esami del Senato. No? Sì, anche questo, vedi, quando parlavo di quella visione strategica che servirebbe al calcio italiano in generale per rilanciarsi e per superare quel gap che ha ormai col campionato spagnolo o quello inglese, parlavo proprio di provvedimenti come questo, che però finiscono per essere presentati, restano imbalsamati in Parlamento per diversi mesi, salvo che poi ci sia qualche colpo di coda. E sembrerebbe appunto che un colpo di coda avrà questo provvedimento, perché almeno in prima lettura entro l'estate il sottosegretario allo sport Rocco Crimi vorrebbe farlo approvare almeno appunto in prima lettura, sì, per poi approvarlo in maniera definitiva in autunno. Abbiamo in Italia 126 stadi, di cui 69 con meno di 10.000 posti, un'età media di 70 anni. E se pensiamo ai grandi stati inglesi o spagnoli, solo questi dati testimoniano la necessità di intervenire. È stata persa la grande occasione d'Italia 90, a differenza della Germania, che invece ha sfruttato il volano dei mondiali di calcio. Per rilanciare l'impiantistica sportiva in Italia è stato presentato appunto questo disegno di legge che dovrebbe portare all'approvazione di un piano triennale, unendo le forze di comuni, società sportive, credito sportivo, CONI, per costruire nuovi stadi, ristrutturare quelle che ci sono e privatizzare. Finalmente si parla di privatizzazione degli stadi. Io avevo un certo interesse per questo provvedimento, anche perché quel gap che dicevo con i campionati, con i club stranieri, è testimoniato dal fatto che se in Italia appena il 12% del fatturato dei club viene dagli stadi, dallo sfruttamento degli stadi, per esempio in Inghilterra siamo al 42%. Questo spiega anche la dipendenza dai diritti televisivi e in generale l'impoverimento del nostro calcio. Questo progetto può essere effettivamente strutturato in maniera seria e importante, a patto che anche in questo caso si faccia chiarezza. Ci sono alcune norme che per il momento non lo sono. Innanzitutto bisognerà capire chi metterà i soldi, che non è proprio che non è l'ultimo dei problemi, e soprattutto come verrà gestito poi il rapporto di proprietà di questi stadi. Si prevede per esempio che i comuni possano vendere gli stadi e le aree circostanti alle società con un affidamento diretto, quindi a Torino si potrebbe appunto costruire, ma la Juventus per esempio è già avanti da questo punto di vista, lo stadio, e semplificare tutte quelle procedure. Anche qui sulla carta ci sono bellissimi progetti, si parla di queste strutture per l'utilizzo di energia fotovoltaica da parte degli stati, che in qualche modo autofinanzierebbero il progetto, come già accade in alcuni stati europei. Si parla della possibilità semplificare le procedure ai fini della sicurezza, della messa in sicurezza degli stati. Anche qui c'è un ritardo rispetto al decreto Pisano, che imponeva tornelli, come sappiamo, sì. Insomma, anche lì sono stati creati queste strutture, ci sono, non sempre funzionano a dovere, e gli episodi di violenza che accadono ancora testimoniano che non tutto funziona alla perfezione. Insomma, c'è questo progetto, lo seguiremo, ne abbiamo dato conto perché forse anche insomma parlandone, iniziando anche noi ad occuparcene, daremo un piccolo contributo. Mi auguro che non sia l'ennesima occasione sprecata, anche perché tutto questo piano triennale dovrebbe essere funzionale poi alla candidatura dell'Italia agli europei del 2016. Abbiamo perso quelli del 2012, speriamo almeno in quelli del 2016. Sarebbe un altro genere di percorso, cioè là li hai persi, là ti eri candidato per fare gli stadi, qui fai gli stadi per candidarti, mi sembra già leggermente più virtuoso come concetto. Assolutamente, più serio ci renderebbe in qualche modo già europei nell'approccio alla manifestazione. Mi segnala Flavio Suardi che ci sono tre ascoltatori che vorrebbero intervenire, tutti sull'argomento tessera del tifoso. Allora vediamo se riusciamo ad ascoltarli, possibilmente in sintesi. Ivan Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io dovrò portare il mio contributo da tifoso del Milan, che dall'anno scorso ha questa tessera del tifoso. Sì. Brevemente, allora, io non ho aderito a quello che consigliava la banca di attivarla come carta di credito, pertanto io la utilizzo solo come abbonamento e per le carte c'ho le mie e mi bastano e avanzano. Sì. Io sottolineerei che il problema è comunque sempre l'accesso allo stadio, perché le persone per bene, come mi ritengo io ma molte altre, prima di arrivare ai famosi tornelli si devono far riconoscere con la carta d'identità, farsi perquisire, passare il metal detector e forse arrivano al tornello. Il problema è sempre quello che lei spesso ripete, che quelli che vogliono fare qualcosa di diverso che seguire una partita di calcio arrivano ai tornelli senza aver fatto la procedura precedente. Nessuna carta d'identità controllata, nessun metal detector e nessuno che ti perquisisce. Tutto qua. Non è poco, grazie Ivan, è una testimonianza interessante e soprattutto documentata. Laura ha chiamato da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve, sono qua. E volevo solo aggiungere un elemento sempre sulla carta del tifoso. Io non sono un'appassionata di calcio, ma lavoro in una delle banche che rilasciano questa carta del tifoso. Sì. E vi volevo solo dire che in effetti la banca, l'agenzia a cui viene inoltrata la richiesta, non rilascia come per altre carte prepagate la carta immediatamente, bensì raccoglie la documentazione, verifica l'identità del richiedente, raccoglie la documentazione e le fototessere, manda alla direzione centrale che ha collegamenti con la squadra di calcio di riferimento, che non so con quale sistema poi verifica che a questa persona possa essere rilasciata la carta del tifoso. Quindi avviene un controllo che però non avviene in banca, quindi la carta ha un tempo per essere messa un pochino più lungo del solito, perché comunque questo iter in qualche modo esternamente alla banca viene seguito. Beh, Laura, grazie. Mi sembra un contributo interessante. Bisognerebbe capire poi in che termini la società di calcio ha rapporti con l'autorità di pubblica sicurezza per verificare diciamo, la buona condotta del tifoso che la richiede. Esula già dal ruolo della banca, evidentemente. Che Laura ci ha spiegato molto bene in maniera interessante. Grazie davvero. Sergio, di nuovo da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno a tutti. Il mio è un po' riassunto dell'intervento dei due ascoltatori precedenti. Io volevo dire, non ho la tessera, però la intendo così. Io tifoso chiedo all'ente che vende la tessera, banca o chi per esse, una tessera, produco i miei documenti, loro si informano tramite, non loro si informano, l'unità di pubblica sicurezza dà l'ok per l'emissione della tessera, l'ok avviene. Io per entrare allo stadio al tornello devo inserire la mia tessera, se sono ok mi fa passare, se invece non sono più ok perché ne ho combinata qualcuna, la tessera non funziona e non mi fa entrare. Poi la posso, se voglio, usare come carta di credito, no, ma sono problemi miei. Io penso che sia una cosa ottima. Sì, purché appunto ci si decida, nel senso che ne sentiamo, la mia riserva era che ne sentiamo parlare da mesi come della panacea assoluta, ho convocato qua Marco Bellinazzo che mi dice in realtà siamo al punto di sempre, nel senso che le due società che l'anno scorso l'ha già introdotta ce l'hanno. E per il resto sono passati dei mesi per nulla. Quello che è stato appena delineato è il percorso ideale che dovrebbe, certo. Dovrebbe essere. La tessera del tifoso è stata rilasciata in molti casi con una, mi risulta, insomma, con una sorta di autocertificazione della buona condotta del tifoso, con una certa speditezza, ma forse c'era bisogno di un periodo di rodaggio. Ci auguriamo che sia finito, che si faccia chiarezza, certo, su quello che deve essere l'iter per concederla e sui controlli preventivi, questo è importante, che devono essere fatti. Non c'è più spazio se non per una brevissima lettura di una notizia che invece avrei voluto approfondire con Marco Bellinazzo, lo faremo la prossima volta. La Fiorentina, lo ha comunicato stamane il direttore sportivo Corvino, sarà la prima società italiana a introdurre la clausola rescissoria per il trasferimento dei giocatori. Questa proposta è stata condivisa dalla società, ho già iniziato a contattare i procuratori di alcuni miei giocatori. Non essendo previste nel nostro attuale regolamento dei contratti, Corvino ha spiegato che le clausole rescissorie verranno sottoscritte con un gentleman agreement, una scrittura privata che per noi varrà più di qualsiasi impegno. Le cifre che verranno stabilite per liberare un giocatore terranno conto del mercato e non saranno esagerate. Ripeto, mi spiace che non ci sia tempo di andare oltre, però insomma il concetto è abbastanza chiaro. Una società in Italia si uniforma a una prassi che ormai in Europa è diffusissima, Marco. È un'arma per difendersi dai procuratori che a ogni istante, a ogni gol chiedono aumenti di ingaggio o minacciano trasferimenti, esatto, in altre società. A ogni gol, a ogni assist e tra un po' a ogni rimessa laterale. Grazie allora a Marco Bellinazzo, grazie a Pietro Lacorti in regia, a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani.